posso più. È quello che ci resta solo la vergogna, la menzogna che ci insegna. Il poco che ci resta fra la sotto i piedi e provo un imbarazzo a cui nemmeno credi. Assista alla vergogna della libertà che fugge, che diventa rogna in un'agonia che distrugge le necessità come l'università. C'è un vergogna per chi crede ancora alle mediocrità, ma qui non funziona nemmeno la sanità. Ogni intervento sta nel vuoto come il salto di un parà. Mi vergogno dell'Italia che propina false regole, di tutta questa gente che si accontenta di briciole. Credono ad eroi inesistenti come ad Ercole, trattati da babbei perché di un ceto più debole. Qui ci raccontano stronzate sui giornali, mostrandoci funerali di poveri militari, partiti per denari più che per degli ideali. C'ho vergogna perché qui guadagna solo il cacciatore, col politico impostore, col vescovo stupratore. Ci parlano di mali ma li vedi con splendore, con l'abito e la villa, lo stemma di famiglia. Si mostrano innocenti più mutanti di Godzilla, così ci piglia il nero di questo smog. Non ci resta che scappare, impazzire come Van Gogh, e tutto ciò che passa non fa moda come il Vogue. Ma non riusciranno a togliere il nero della mia tag, oltre a quello del fango che addosso ci frana. Qui non si eleva il tuo rango, qui la tua vita si sgrana per le sciagure più dure che pure già erano previste, come già Pilieri che adesso più non esiste. Di questo passo resteremo giù, di questo posto non ne posso più. È quello che ci resta solo la vergogna, la menzogna che ci insegna. Il poco che ci resta frana sotto i piedi e provo un imbarazzo a cui nemmeno credi. Qui piove il fango, sopravvite che non scorderò mai. Qui frana il fango, da molti che non rivedrò mai. Adesso qui ci resta solo sotto i piedi, e provo un imbarazzo a cui nemmeno credi. Il tuo presidente si crede l'unico sano, afferma con il democratico sia solo anti-italiano. Lui si fa un processo diverso quello d'Alfano, e tutto ciò che per me è giusto onesto lo reputa vano, buttando la giustizia dentro un sacco di immondizia. Si vizia con l'avarizia e col culto della persona, sguazza nel suo yacht con accanto le sue escort, mentre che paga gli spot nei quali si automenziona. Come funziona qui la libertà di stampa? Campa solamente se appoggiata da un partito, mentre la vergogna del mio stato di vampa non scampa come piogge sfoggia chi si è laureato. Manca sicurezza e tagliano la polizia, ma ci mettono le ronde gratuite che fanno danni a cui sono una razza diversa e fanno razzia. Fanno perdere la testa proprio come a San Giovanni, tutto per guadagni, voti tra compagni, e tu che li appoggi sei lo stesso che ti lagni. E se ti vergogni è perché ti danno il fake, somministrano veleno molto più di Lucky Strike, e arrivano pesanti come un colpo di kick. Si propongono con volti nuovi ma sono un remake. E in quanto a me senza lavoro è siciliano, so solo che rimero e sputerò ad ogni provenzano, a ogni padrone insano che si spaccia per cristiano e che mi vuole più lontano col bagaglio nella mano. Di questo passo resteremo giù, di questo posto non ne posso più. È quello che ci resta solo la vergogna, la menzogna che ci insegna. Il poco che ci resta frana sotto i piedi e provo un imbarazzo a cui nemmeno credi. Qui piove il fango, sopravvita che non scorderò mai. Qui frana il fango, da molti che non rivedrò mai. Adesso qui ci resta solo la vergogna, la menzogna che ci insegna. Il poco che ci resta frana sotto i piedi e provo un imbarazzo a cui nemmeno credi. Qui piove il fango, sopravvita che non scorderò mai. Qui frana il fango, da molti che non rivedrò mai. Adesso qui ci resta solo la vergogna, la menzogna che ci insegna. Il poco che ci resta frana sotto i piedi e provo un imbarazzo a cui nemmeno credi.